Roma, CQDX, Sordini Italia. Ah, faccia di un cazzo che ti arrivi inizio, K. E su giornale. Chi chiama su 10? Ciao Gianfranco, Natalino, buonasera. Non ti capisco, chi sei? Sono Natalino, detto. Non ho capito Natalino, ma sei tu, perché io sento musica e basta, e quando prendi... Gianfranco, Natalino sono, guarda a vedere la radio com'è. No, adesso va bene, prima era tutto musica, confusione, E avevo la, come dire, la televisione accesa. Ma tutto volume proprio. Sentiva, t'ho sentito solo quando hai detto Natalino, poi tutto l'altro era tutto cosa ti volevo dire? E ci stiamo avvicinando, no? Ti stai preparando, stai studiando giorno e notte sui libri? No, non sto facendo niente, avevo il Covid, mi è durato 2 settimane, è da ieri che sono negativo, figurati. Ti pareva, quello perché vai in giro in discoteca la notte, Per andare in discoteca mi devo far prestare le gambe da qualcuno per ballare. Ieri Natalino, già non te ne fai mancare. Qua, a dirti il vero, non so neanche come ha fatto a appiccicarmi, cioè mi ha contagiato mia moglie, perché hanno contagiato prima lei e poi giustamente ha contagiato anche a me. Però mi è durato più di 2 settimane questa storia qua, e non stavo bene, c'avevo la febbre, insomma, chi più ne ha più ne mette. Bisogna stare attenti, loro dicono che se lo devono prendere tutti, però è un problema. La quarta dose è fatta, lei? No, negativo, mi ha beccato prima. Ma speriamo che a settembre arrivi quello nuovo, aggiornato anche per questo impiegato di cosa, perché è altamente infettivo. È un guaio, comunque vabbè. Ma l'esame è una cosa, lo date sempre via computer, giusto? E online lo diamo, a novembre si dà questo esame qua, a novembre. Non stanno facendo lezione, nulla, se ne parlerà, speriamo, venerdì. Erano sempre impegnati, capito, quelle persone lì, e quindi non stavano facendo lezione a nessuno. Sì, vabbè, poi di questo periodo è anche pesantuccio, E fuori ci sono temperature folli, il termometro segnava con la macchina raffreddata a 35 gradi, la gente era, sembrava di essere in spiaggia di quanta gente c'era dentro i supermercati, dentro i cosi, infatti meglio non andarci. perché vedrai quello che succede nei prossimi mesi. Oi oi. Un macello, Giorgio sta arrivando, è il treno. Ho abbassato i watt che non erano 5 propriamente, adesso sono 5. No, per me va bene adesso. Ogni tanto te ne dimentichi. Io ero convinto che sa perché che erano a settembre, invece mi sta dicendo che sono addirittura a novembre. Insomma, te la vogliono far sospirare, dai. Dovevano essere a settembre, poi il ministero ha deciso diversamente. Vabbè, speriamo che come cosa allora siano più generosi, dai. Vabbè, è così, Natale. Che ci vuoi fare? Siamo nati per soffrire, a quanto pare. Vabbè, adesso vediamo un po', là. Ci mettiamo sotto. Tanto il quarto vaccino non lo devo fare, perché se mi ha beccato il Covid, dico, non lo posso fare. Vabbè, deve passare un bel po' di mesi, quanto? 5 mesi? Boh, non lo so, chiederò al mio medico di famiglia. Ma è stato pesante? Insomma, pesante, non è che mi abbia preso male, no, avevo sempre questa febbre, c'ho ancora un po' di catarro e basta. Non è che mi ha preso male a me, capito? Ha preso più male a mia moglie. Mia moglie è stata male veramente. Perché dipende anche dal contatto che si è avuto, capito? Dalla quantità diciamo di contagio, diciamola così, ecco. Purtroppo è stata a contatto proprio con tante persone che ce l'avevano, quindi è ovvio che sia, se invece è stata una cosa così che l'organismo riesce a gestire, neanche te ne accorgi. Ma cosa vuoi dire? Noi siamo scesi giù in strada a prenderci il fresco, l'indomani mia moglie era malata, gli ho fatto il tampone e risultava positiva, perché io me l'ho sospettato, questo è Covid. Gli ho fatto il tampone e il risultato è positivo, ho detto vai che c'è il Covid, tu vai in farmacia a farcela. È andata, è positiva, era infatti. E negativa è da domenica lì, perché gli ho fatto il tampone. Io me l'ho fatto ieri mattina, manco a buttarlo un tampone, tanto lo sapevo che anche io ero negativo. Me l'ho fatto ieri mattina prima di andare in farmacia ed ero negativo, ho detto adesso vado e me lo faccio, così almeno mi ho fatto il coso, come si chiama, il Green Pass nuovo. Sì, io l'avevo fatto l'ultimo, sarà qualche 2 settimane fa, credo, non me lo ricordo. Facevo dei dubbi, invece era negativo. Era negativo, quindi io sono tra quelli che non sono più tanti che non l'hanno passato. Ho fatto 3 vaccini, però non l'hanno passato. Magari l'ho passata e non me ne sono neanche accorto, chi lo sa. Non penso, già te ne accorgi se ti attacca male la sorte, perché comincia a salirti la febbre, anche se ti prende senza altri sintomi, diciamo. Mia moglie ha vomiti, diarrea, e più chi ne ha, più ne metta. Era proprio messa male, come l'ha preso. Infatti, perché gli ha fatto tampone? Per quel motivo, perché aveva questi sintomi brutti, ho detto questo è Covid. Ma sicuramente siete stati a contatto con qualcuno che ce l'aveva. Non è che te lo prendi in strada, devi prendere il fresco alla rasura. Guarda, eravamo io, mia moglie e un amico mio che è negativo. Quello non se l'ha beccato, per esempio. Io ho l'impressione che chi ce l'ha attaccato è quello del secondo piano. E lui manco sa di averlo, penso. Allora è meglio starci lontani. Mia moglie quando esce adesso c'ha sempre la mascherina, anche a portare il cane c'ha la mascherina sempre, ha detto non ti avvicinare a nessuno. A noi c'è gente che si è preso 2 o 3 volte, però questa ultima l'ha passata male. Non certo gente anziana, era gente di 45-46 anni, ma le era soltanto e li ha buttati a terra, sono malissimo, e quindi rispetto anche alle altre che avevamo preso è stata una pessima esperienza, perché vuol dire che il fatto di averlo passato non ti predispone ad avercelo con sintomi inferiori. Questa volta hanno sofferto un bel. Comunque, vabbè, speriamo bene. Speriamo bene, sì. Adesso venerdì. Speriamo che ci sia lezione, così vado. Vediamo un po'. Per quello già mi porto la mascherina, non mi butti bibna. Per tutta la lezione sto con la mascherina alzata, io me ne sbatto. Sì, quello è meglio. Non so mai. Sì, infatti. Non si sa mai, no. Non me l'ho passata bene, poi è durato di più del solito, perché dice che durava una settimana, invece no, è durato più di 15 giorni pure. Dipende dall'organismo che trova, quanto è reattivo. Se è immunodepresso è un guaio. Comunque, l'importante è che sia passato. E infatti forse dipende proprio dalla persona. Ma è durato molto a tutti, a quanto mi stava dicendo quella dottoressa, mi ha fatto il tampone, dice no, dura di più di una settimana, e questo è pure brutto, dice. Sì, sanno quante varianti ancora ce ne saranno. Speriamo che arrivi la variante in cui si disattiva, in cui la smette di rompere le scatole, ma chissà. E se riescono a azzeccare il vaccino per la variante, per poterlo combattere bene. Speriamo. Cosa vuoi che ti dica? Adesso devo chiedere alla dottoressa mia quanto tempo devo stare così senza poter fare l'altro vaccino. Non si sa. Ma non c'è mai nessuno, a parte i soliti fischietti, trombette, quelle cose lì. Veramente non sapevo rispondersi perché ce l'avevo spento, io non mi accendevo neanche, non ne avevo voglia, no. Mi ha telefonato Giulio stamattina, mi ha telefonato, e avanti ieri mi ha telefonato Claudio, preoccupati perché non mi sentivano. Sì, già avevo detto anch'io in effetti a Giulio. Era un Natalino fino a fatto, non lo so. Quindi sai, con tutte le cose che si sentono, siccome noi non compriamo il giornale, meglio sempre essere informati, no? Infatti, mi ha telefonato Claudio, avanti ieri mi ha telefonato Claudio, ieri mi ha telefonato Claudio e stamattina mi ha telefonato Giulio, la verità, stamattina mi ha telefonato. Infatti, il Claudio è un tanto tempo non lo sento, speriamo che stia bene, anche lui qua oramai quando qualcuno si assenta così non si è preoccupati, ecco. Non l'ho sentito perché non c'era, era mi sa ad Alghero, mi sa che mi ha detto che era Alghero, non c'era qua, è rientrato. Comunque dovrebbe, se magari chiami là, magari ti risponde. Non so se sia in ascolto qua, ma là penso di sì. Là diciamo ultimamente non è molto praticabile, tocca spostarsi sempre in UHF perché arrivando questi spagnoli dalle Baleari che mettono musica, fanno questo che dura 9 dalla mattina alla sera, e quindi li hanno presi anche a voce per questa storia della musica, mi hanno detto, ma mi sa che hanno fatto orecchie da mercante, mandolino e trick e track, e quindi non faceva, capito? Anche mettendo lo special massimo riusciamo a passare. Ma cosa vuoi che ti dica, Giorgia? Non è un comportamento consono da radioamatore fare così, anche fare orecchie da mercante come hanno fatto. Aiuta, non ci si comporta così. Infatti, ma chissà, poi questa è quella classe probabilmente di tonti che per parlare tra di loro magari si danno 50-100 watt, si rendono conto che poi vanno anche a rompere le scatole. Tu figurati, ero intenzionato, cioè io rimango sempre in ascolto, ero intenzionato a fare questi qua facendo casino, mettere un antennino, io di piccolini piccolini, ho un guadagno bassissimo. Beh, ieri tornando con la macchina, lo sai che li sentivo anche dalla macchina, quindi ci ho dovuto rinunciare, ho detto cosa mi metto l'antenna, già arrivano in macchina con l'antenna bassa, figurati cosa succede mettendo anche l'antennino piccolo, magari un po' più in alto, non cambia niente. E magari poi non ti sentono gli altri, oh macello, perché dice comunque ce l'aveva l'antenna in macchina, c'aveva la radio in macchina, magari c'aveva qualche bibanda Claudio quando era fuori. Sì, ma c'era di Alghero, sentiva più di uno di spagnolo. E infatti l'avranno fatto a bezza. Anche 10 metri diciamo lo stesso, molta preparazione. E così, che ci vuoi fare Natalie? Peccato che l'abbiamo spostato a novembre, ad esempio non c'era nessuno per farla a settembre, così almeno ti avrebbero tolto di mezzo. Anche tu veloce recuperavi il tempo perso, invece altri 2 mesi in più. E che vuoi fare? Che vuoi fare? Non si può fare nulla. E speriamo pure che mi vada bene, dai. Certo, si risolve tutto. A novembre. Così speriamo di poter avere questa autorizzazione, dai. Speriamo, perché non c'è veramente poca gente, oramai molti se ne andano troppo le scatole, poi quando c'erano quelle cose, anche normale, preferiscono andare in come si chiama, FT8, almeno fatto da solo. Quello non mi piace proprio, quello fa tutto da solo, fa collegamenti da solo. L'ho visto questo programma qua, è fatto tutto da solo, anche i collegamenti da solo fa. Tu magari te ne vai al bar, quando torni non so quanti collegamenti ti ha fatto. Sì, infatti è un po' noioso. Sì, aspetta, devo rispondere su che stanno chiamando, caspita, la moto non lo sentivo, c'è Roberto, un attimo. Vada. Sono in sala di 10, c'è qualcuno? Avanti, chi chiama? K, buonasera, dai, già ne do più lungo. Ciao già, buonasera. Ciao anche a te, buonasera. E allora? 60 minuti. Vabbè, ma nessuno che ha acceso 50 volte, la sta lì, buh. Non va mai nessuno, ma che non so come, che non posso manco muovermi. E cosa fai già? Sempre la gamba sta lì. Non sto più dormendo la notte, dolori fortissimi, adesso c'è l'appuntamento al policlinico, ho fatto l'astro e tutto quanto, te lo devo portare e farlo vedere. Non riesco più a appoggiare la gamba in terra, cazzo, a portare un gare, ma a me non è più la passeggiata, ma è un martirio. E voi come state? No, io sono negativo da ieri. Ciao. Ciao. Anche mia moglie negativa da domenica, gli ho fatto il tampone, solo dovevamo aspettare fino a ieri perché le farmacie erano chiuse. E allora non siamo usciti fino a ieri. Ieri siamo andati, ci abbiamo fatto il tampone, lì così abbiamo il green pass per poter andare e fare quello che dobbiamo fare. Ma quanto vaccino ho fatto lei tu? No, si mi ha pigliato il Covid, come facevo a farlo? Ah, è vero, ci stavo pensando. No, non l'ho fatto manco io, dai. Intanto questo qui dura poco, poi ti fanno rifare l'altro, è un casino, ogni volta non è facile, bisogna mille luci. Lo so, per coricarmi, per salire la gamba, devo prenderla con la mano e sollevarmela perché non ce la faccio a sollevare. Mamma mia. Speriamo che al policlinico sono svegli, ti chiamano subito e ti operano, capito? Al policlinico sono un bel di lusso. Già lo so, vogliono professori da fuori al policlinico, lo so. Ho già prenotato la visita al policlinico. Meglio almeno te lo fanno questo caso, se uno non può fare così. Io lo so cosa stai passando tu. Ma dolore, mi se sono riuscito a dormire, non trovare posizione, spostarmi di letto, di tutti i viaggi provato. E tutte le notti così, ho la lotta, quando mi curico riesco a dormire. Me lo posso immaginare. Io, lo stesso vi su Google, di maturato, più di 2 chili, maturato, mamma mia. Sempre con questa febbre, non me l'ho passato tanto bene, no? Non ho avuto roba, non era forte come ha preso a mia moglie, per esempio. A mia moglie l'ha presa male veramente, l'ha presa. Ma Concetta ce l'ha di suo, anche quando si prende la febbre normale, così la prende sempre in maniera pesante, no? Cavolo, 2 settimane addirittura che dura. Di più pure, ti sto dicendo, e dura così. Adesso non è più una settimana ed è tutto finito, no? Ma la vado buru che tu gattarro, che va giù, ti lascia strascichi pure. Non è tanto bello questo qui, Mia moglie, io perché gli ho fatto il tampone, però se l'ha pigliata male, l'ha presa a vomiti, diarrea, febbre. E allora per forza gli ho fatto il tampone, ho detto che tu mi bari Covid a me. Ma gli ho fatto il tampone ed era positiva, a super noi. E poi di rimpetto è toccato a te così. Subito mi ha pizzicato. Ha pizzicato subito. Ho visto che iniziava a pigliarmi la febbre e ho detto infezione. Ma ho fatto il tampone burueo ed ero negativo, ed ero positivo, figurati. Infatti io gliel'ho fatto domenica lì, no, ed era già negativa, solo che le farmacie erano chiuse e allora abbiamo aspettato a uscire fino a ieri mattina. Ieri mattina siamo andati ed eravamo tutti e 2 negativi, capito? Ai, vabbè, pazienza. Ieri Manuela ha fatto il primo lancio col paracadute. Quella è pazza. Pazza azzurra. Mi hanno regalato per il compleanno questo. Mi ha scritto, papà lo sai dove sono? E dove sei? A Tortoli. Sto andando a lanciarmi col paracadute. Ma tu matta sì. Perché è matta? È un regalo che mi hanno fatto. E poi mi ha mandato le foto mentre si lanciava tutto qua. speriamo che si sia avanzata almeno da 3.000 metri, perché scende a una velocità spaventosa. 3.000 metri. È quella la quota che uno si deve lanciare per essere un po' al sicuro, capito? 3.000 metri, poi l'atterraggio era sulla spiaggia, diciamo dove non ci sono bagnanti, dai, è una parte dove non ci sono bagnanti. Io ho capito, ma intanto l'atterraggio è più dolce del paracadute normale, adesso questi paracaduti che hanno atterri dritto praticamente, non devi neanche fare il capitombolo. Ehi, dolcemente atterri, capito? Ha detto che non è nemmeno caduta niente, è atterrata dolcemente. Dice che è una figata, ha fatto tutte le riprese quando era in alto. Quando era in alto c'era uno davanti a lei che la riprendeva mentre scendeva, capito? Ci hanno detto di stare con la testa alta, le mani allargate, le braccia allargate, e lui dice guarda, era una figata. Perché rallenti la caduta, capito? Così. Se no ti vari subito a un botto, mi capito? Io come ti mi ha detto ci ho pensato subito a Taricone, cazzo, ho detto mamma mia, già ne offendi questi sport estremi. Guarda, no, ci vuole pochissimo ad avere qualche incidente col paracadute. C'era Panico Vedo che non so quante ore di cosa ci aveva, eppure in corsi che è caduto e si è fratturato tutti i rossi di Rugui fu. Guarda, Vanni ha avuto un incidente in Corsica veramente serio, di non buttarsi più. Adesso l'esperienza l'ha fatta, massa, dilli. Perché sbagli la minima cosa e ci butti due. Non penso che ci vada spesso, 300 euro a volta. 300 euro prendo. Chi tu gatto andava, un bel di posti si è lanciato. Aveva un'esperienza, eppure mi ha fatto uno sbaglio la volta in Corsica. Futido. Si è fatto veramente male. Ma poi Natalia non la vedo una cosa seria, perché uno che fa queste cose deve avere un minimo, diciamo, di informazione, di cose, invece di andata, si è lampata così senza avere mai fatto lezioni di paracadutismo né niente. Invece Guido aveva molta esperienza, eppure ha avuto l'incidente. Infatti digli di non farne più. Mamma mia, quelle non sono cose da fare, no? A parte che i paracadutisti ti fanno un bel di lezione, un bel di ginnastica, prima di lanciarsi quelli sono preparatissimi. Ma chi si è fidiato? Invece di sport estremi, adesso sta pensando a quegli elastici. E fidiato a voi, Ciamizzina, voi che di marca. Manuela è fidiata. Fanno di Bassaragana già. A carità. Sì. Adesso ti devo finire che prendo il telefono tra la mano. Mandalo su WhatsApp, che adesso metto WhatsApp nel computer così lo vedo. Cazzo, mamma mia, Ciamizzina. È fidiata davvero. Natale li ha cancellati, aspetta che le ho scritto di mandarmele di nuovo. Le ha tolte, Natale. Ho Natale. I primi, mi sa che ci alternano. No, forse c'avevo il microfono a zero. L'ha tolta Emanuela, non ce l'ho più. Se me le rimando te le mando. C'era lei. Prima, dopo la discesa, prima di salire, tutte le fasi. Poi in alto un puntino perché gli ha fatto la fotografia a Massimo con la foto col cellulare. Ma dimmi lui, Ciabicina, è poche attrida. Tu quando mi ha detto, ma sei matta, perché è matta? È un regalo che mi hanno fatto, mi hanno regalato gli amici miei per il compleanno, si sono tutti uniti, hanno raccolto i soldi e mi hanno fatto questo regalo. Ah, bacia. Ma è in ferie in Sardegna lì praticamente, non è in continente, no? No, è in vacanza tutto il mese, capito? È in vacanza Natalì. Si è preso un mese di vacanza, tutta agosto si è preso. Io ho capito, è una scena. No, ci pensa la gana di vederla. Adesso sono da molto che non la vedo. Mi ricordo una ragazza alta alta, che l'avevo vista con la mamma una volta. Ero con mia moglie, l'abbiamo vista in un supermercato. Con i capelli a caschetto era. Sì, a città mercato l'avete vista, sì, me l'ha detto Liliana, che vi aveva visto. E non si è fatta, una bella ragazza si è fatta. E diciamo che lei non sa stare ferma, si è da Cagliari, è stata una settimana a Cagliari, poi dove è andata, Costa Paradiso, insomma è sempre dire, dice cosa vengo a fare qua, vengo a farmi le vacanze e me ne devo stare a casa, è normale che io viaggio, giro. Giovane, è un gabbo di più, ma è giusto che sia così, che si diverta, però questi sport così non li approvo tanto io, è la verità si dica, perché ne ho visto di tutti i colori. Ma io gliel'ho detto, è rischioso fare, lei mi ha detto, ma perché è rischioso? Su 10.000 casi può succedere uno che non si apre i paracadute, ci sono le statistiche. Ma non è così, che puoi sbagliare, c'è l'errore umano, perché Vanni ha sbagliato, non è che non si è aperto il paracadute, ha sbagliato qualcosa, adesso non mi ricordo cosa via, è sbagliato e si è frantumato. Se non si apre fare a 1.000, perché Pietro Taricone non l'ha molto lui, eppure serve l'esperienza. Non è quello che ti sto dicendo, va via un'esperienza a Vanni, non so, ha bisogno più di 200 lanci a Rella, eppure cavolo gli è successo l'incidente in Corsica, è caduto. No, vabbè, lei praticamente si sono lanciati in tre si sono lanciati, quando si è lanciata lei c'aveva quello che faceva le riprese, che si è lanciato per primo, la riprendeva mentre volava, e poi c'aveva l'istruttore dietro che praticamente in caso lì non riuscisse a più fare tutte le cose, si avvicinava e gli apriva lui, capito? Infatti. Oh signor, una maniglia, devi tirare una maniglia, Bruno e ti tira in alto quando si apre il paracadute. Sono quei paracaduti quadrati adesso, sono molto sicuri e molto, e atterri molto dolcemente, non è come quelli prima, quelli tondi che aveva l'esercito prima, ti ricordi? Quelli lì, cazzo, se non sapevi cadere ti ammazzavi. Guarda, non è che io ho un conoscente che ha il parapendio e praticamente è andato a Capocaccia, lì quella zona lì, e praticamente ha girato il vento, che se l'ha sbattuta una ruscia, che si è tutto frantumato. Vedi, guarda, un momento a succedere l'irreparabile. Hai visto, l'ha tirata la roccia e si è tutto frantumato. Che è un casino. Quelli sono sport estremi, sono da non fare. Purtroppo ci sono le persone che gli piace il rischio, capito? E non è una di rischio, bisogna rischiare, girare, che va a Garda dove si fa tutti i giochi più pericolosi, capito? Di chi si gribbia così? Provare le cose, scoprire, lo so, è un Beatri Vida come che piccina, già esci da noi che te le imbacchi così, però dimmi, è più Beatri Vida come che piccina, è figlia da lui, mamma mia. Come me l'ha detto qua? Io ero, guarda, mi ha chiamato Massimo, il padrino, e mi ha detto, già, ma non sta per lanciarsi, ma non si è ancora lanciata, no, che te sono guzzato, mandami tutte le fasi che voglio vedere tutto quanto, cazzo, mamma mia, ero con la pressione. Ero grido. Ti credo. Quando mi leggi tu mi stai venendo un coi pa' me. Eppure loro sono così, Natale, cosa gli vuoi fare? viene fatta così. Adesso per dire, per andare a Cagliari, su internet ci sono, per dire, uno va a Cagliari, si dividono le spese e praticamente li accompagna questo qui, capito? Per dire, mettono quanto ci vuole di benzina, 50 euro, mettono un tanto a testa, viaggiano in 3-4 e quello che va a Cagliari li porta, capito? E io non sono d'accordo, ma con quelli che non conosce nessuno, non li conosce, ma io ho delle recensioni, so che persone sono e tutto quanto. E l'altro giorno l'ho accompagnata perché dovevo andare a Cagliari, c'erano queste due ragazze e un ragazzo che guidava. Ho detto vabbè, dai, già va bene così. E ho detto voi andate piano e lei a 160 va bene. Una scena, una scena. E adesso ci sono su internet, c'è tutte queste cose, prima non veniva. Per dire tu vai e scrivi chi è che deve andare per dire a Cagliari. E uno scrive io domani parto domani alle ore, se ti interessa fatti trovare per dire via l'Italia dove c'è il rifornitore dove siamo trovati noi. E si fanno trovare tutti lì al rifornitore perché tutti sanno dove, capito? E poi partono tutti insieme. Sì, ho capito. Poi non me lo vivado, perché non è gente che conosci, capito? E se ti capita quello Mario o Maria o qualcosa, vabbè che c'erano altre persone con lì. Sì, infatti. Arrivederla, commissario. Emanuele non è grudi di bocca a me. Lei con pochi soldi gira, fa, è stata 5 giorni a Cagliari in albergo e via. Sei andata a Chia, tutta quella zona lì ci ha fatto, capito? Villa Simiu, Schia. E infatti, adesso lì ha sete di sapere, di fare, di conoscere, capito? Non è l'argomento nulla che siamo su Sigardinoghi e basta. Io vabbè già ho girato anche io e sono andato anche in continente. Prima settimana quando c'erano quei viaggi low cost, ogni settimana eravamo in continente, quando ero sposato. Sempre in continente, ogni settimana, l'unica cosa che c'era che ti doveva stare alle 7 per prendere l'aereo. E poi ritornavi verso le 9, non sembrava, non si capiva, non riuscivo a capire le cose, perché mi trovavo, dopo mezz'ora mi trovavo qua a Sassari, capito? Prima in un'altra città, poi a Sassari di colpo. Già lo so. Io la Sardegna già me l'ho girata tutta, in lungo e in largo. No, io la Sardegna no, la zona di Nuoro non l'ho fatta. Sì, ho girato, però la zona di Nuoro, quella zona lì no, sono andato chi a quella zona lì sì, a Cagliari, perché siamo andati due settimane, siamo stati in albergo e andavamo da lì, andavamo la macchina e andavamo da tutte le parti. La zona di Cagliari l'ho fatta, ma quella di Nuoro, addirittura l'albergatore ha detto come mai avete il mare così bello vicino a Sassari, Sintina, Alghero e venite qua, perché questa zona non l'abbiamo vista, a noi ci piace vederla tutta la Sardegna. Non solo un pezzo, io ho visto Calagonone, tutti quei posti lì li ho visti. Tu stai a girare la Sardegna, se no quando quasi lo corriere, cazzo io sono Cristo mio, un disegno di scindo. Cazzo, un dico di l'ultimo zecchino di Gesù Cristo. E anche io l'isola bianca, tutta quella zona lì facevo. Quando ci avevamo Nuoro, poi ci davano di corpo, ci davano Nuoro, poi ci davano la Maddalena, l'isola bianca, tutta quella zona lì, capito? Ci si da Nuoro e Vicinchini, non preso. E io ho dormito a Sasperate, Cagliari, cazzo, la Maddalena, cazzo la Maddalena va più la cugina di Babu, quindi vedi bene, me l'ho girata tutta. Nuoro, Rosa, Orune, da tutte le parti sono stato. Una volta ho sbagliato percorso e ci sono uscito fino a Orune, ci sono uscito. A sbagliare di strada, cazzo, mi sono cacciato da Marrilli, cazzo. Io alla zona di Nuoro sono stato a Nuoro, a Rizzo, sono stato Pasquetta, da Rizzo, in albergo, e poi La zona di Nuoro, sì, Olanio, Rutelli, quella zona lì, ho girato, vabbè, sono passato anche a Oruna, quella zona lì, tutte le finestre chiuse sempre ci sono, mamma mia, ogni cosa a rubre. Io ci ho anche mangiato a Oruna, mamma mia, e lui, perché erano tutti gente che conosceva mio cugino, quello che è morto, Marco. Uiaia. Beh, a Nuoro sono andato in questo negozio a consegnare una volta, quando ero con l'Attivi, questo qui non mi voleva mettere la firma nella bolla, mi ha toccato la mano e ha detto che la sua firma era quella e non ne voleva sapere di mettere firma, beviti un bicchiere, ha preso, mi ha fatto da bere, però firma non ne ha messo. Carino, e la stretta di mano conta, capito? E ne ho fatto io uno scarabocchio, la stavo attaccando. Infatti, ripuni una sigla. E allora ho fatto così, però Lola l'ha detto che firma non ne metto, non toccano la mano. La mia firma è questa, la mia, io sono di parola, quando io tocco la mano, quella è la mia parola. Dente valente. E così la bestia tu fai cambiare, vai e dici che non va bene così, ti può rimanere in danno. Già lo so già. O se no, se ti vuoi rifiutare quando ti invitano a bere, cazzo, allora si offendi in avviru, perché pensano che lì si Hamen, dimmi. Allora, quando accompagnavo mio cognato a San Francesco di Nuoro, perché c'era uno specialista lì, no? Faceva lì visita a questo specialista. E mio cognato era di paese, era di Irula. Quindi è entrato in un bar e praticamente ha chiesto la birra e poi c'era della gente al banco e ha detto pago da bere a tutti. E lui ha detto no, questo qui, no. Qua voi siete forestieri, paghiamo noi. A lui non accettare niente, paghiamo tutto noi. Sane, imbriagato, se sono uscito fuori che vedevo la nebbia pure se non c'era. Ah no. Si stranzo è sacro. E dopo, alla fine io non ce la facevo più, ho detto, no, basta. Beh, lo sai cosa mi hanno servito? Le cingombe sotto un piattino. Ah no, origaramelli. A che cosa la devi bidiare? Perché sennò fare chirurgia a Camendi, devi pensare a Issu. Sono ospitali, ma la sorte. Ma qua si sgarri. E mio collega aveva questa abitudine, no? Quando entrava nei bar e cose, pago io da bene, non c'è problema, anche se non conosceva la gente, lui era del paese ed era abituato così. Ma l'hanno fatto tutti in una lira da tasca, no? Tu di nove mi ha detto che si stava e detto stesso, lui vuoi stiro. E pagamo su lui. E niente, mio collega ha detto, dai, no. Ha detto, qua si usa così. È vero. Il pranzo, come dicono loro, il forestiero è sacro. Ma non sgarrare, ma. Ah, se sgarri lì ti fanno la pelle. Senta un po'. Poco ci mettono, via. Ma comunque io mi sono sempre trovato bene a Nuoro, la verità, perché c'erano tutti i pariti di Liliana, quando andavo là i cugini, Mano di Greffa, tutti quanti qua, mi hanno sempre trattato veramente bene. Sì, infatti. Cosa? Chi si sono così? Che poco di va. Addirittura andava lì a Orune a caccia grossa. Mio cugino conosceva tutto il paese lì. Un bel paese Orune. Io ci sono stato parecchio lì. Loro sono venuti qua, quelli di Orune, che andavano a ammazzare il robot. Ci sono proprio cazzo barbari, sì, cazzo. Io Giuseppe cazzo appunto rubo che aveva già detto mezzo ragazzo vivo. Fino al cucchiaio si è truncato in Brento. Addirittura. Via. Qua Natali, se vuoi venire sotto casa, ogni notte, adesso anche alle 9:15 ho visto 7 cinghiali in via Bonolva ero col cane, si è messo a abbaiare, pensavo ci fosse un cane, mi sono guidato, aveva sette cinghiali, ho preso, ho detto cazzo di cinghiali, mi sono agissura, blu, almeno più un quarto. L'altra notte si è messo a abbaiare e tanto, poi ha abbaiato lo cane che si è vicino, ha abbaiato l'altro cane, tutti abbaiando, mi sono alzato dal letto ed era tutto pieno di cinghiali, tutto di fronte al portone. Tutti i russi, poi si sono messi a correre, sono andati verso Piazza della Meridiana, che lì ci sono le ghiande, dice si mangia lì. E la ghianda sì, si mangia. La mangiano sì. Vanno ghiotti di ghiande loro, perché stanno sempre nel bosco. È che non li puoi sparare, cazzo, perché sennò ti arrestano. Cazzo. Perché si sente troppo lo sparo, ma la so. Se no l'abbiamo imbigliato una cara impresa, un usciatore, uno di chi si, a gas, di quelli per fare i terrati, quelle cose lì. Io ce l'avevo in campagna tutto l'armamentario, la appiccava mala cara, usciando, pulito e squartato di brutto, ma poi era un chirurgo. Già lo so. Se no, come si chiama? La balestra, se quella non fa rumore. E roba che non fa rumore ci vuole. Ma poi devi fare in fretta a portarlo via. Perché cazzo se ti trovano sono cavoli. La foresta deve avere un posto dove attaccarlo, per prima lo devi tutto bello pulire, usciarlo e da poi attaccarla alla cara, quando è bello pulito. E da poi invece lo devi bugni subito, bapiti lo sangue. No, ho caricato una motoretta, caricato in campagna, da cui deve tutto con calma. Infatti, una volta che l'hai sparato vuole subito punto per perdere tutto il sangue. Ma il problema è che se ne ammazzura non può andare in fretta, che vi dico roba di 7-8 di volta. Un giorno ho visto tutta la famiglia, padre e madre, tutti i figli appresso, ma un bel mira, una dizzina mi l'ha fatto. E adesso ultimamente li sono venuti tutti questi, sono cresciuti quelli, boh, sono altre famiglie. E la basetta ne viene, ne chiedi, ci sta sane pinza filighetto, zatta, ne darà berro via. Dalla ferrovia di Valleda, anch'io, non sei tu vicino a te. Sassa ne vince a Filichetta, vai da un po' come, se ne parte in strada. La salita ne vicino, dietro l'edicola, proprio dove c'è la ferrovia, dove stai seduto, dove c'è la prima, la fermata del tram, dove c'è l'edicola e anche la frutta e verdura, e col chiosco. Lì dietro erano, e Franca questa signora li mette sempre a mangiare i gatti, sono dei gattini che li mette a mangiare. Beh, se li mangiate tutti, se li mangiate il bidu di tu gatto, gli ha messo l'acqua e la roba da mangiare, se l'ha fatto tutto loro, se la mangiare. Io credo, vanno a Ciappandura America, in Chivi, vanno vicino ai cassonetti per cercare roba da mangiare, capito? Ai cassonetti della mondezza. E poi adesso non temono neanche l'uomo, cazzo. Prima come vedevano l'uomo, cazzo, fuggivano. Ah, ma manco di l'uomo, dice che non ti mini manco l'uomo. Ma cosa sono abituati? E su internet c'era scritto praticamente questi cinghiali sono entrati nella spiaggia dove c'erano tutti i bagnanti, ci hanno portato la roba da mangiare per stare tutto il giorno e gli hanno rubato le buste e ci hanno mangiato la roba che c'era dentro. Questa ragazza ha preso, si è alzata, deve essere, si è spaventata, che cosa l'hanno musicata, da Riddu. E poi il paniere della musica. No. Volevo, ma piano. Attenamente chi su Bocco chi va via Babbo, chi su Verro chi va via Babbo. Ha tirato una zannata a culo a mio cugino, 15 punti in culo gli hanno messo. Ma cinghiale? No, rubo come sei tu. Però è marugante un cinghiale, io. Cazzo, io si sarei quintare di buco, cazzo, si bugna due zampi, non lo so, buio. Facciano le zanne anche i maiali, c'è. E allora, il maschio ce le ha. Lo sapevo. Pensavo solo i cinghiali, io. Insomma, ti sto dicendo che veniva questo signore, no? Questo signore a prendere la verdura, quella riscarti della verdura, della frutta, eccetera. E io niente, l'ha levata da una parte e se la portava via. E un giorno non è venuto, ho chiesto come il giocatore non è venuto, che andavano all'altro, poi già lo sa, buttando la riconoscere tutti, mi hanno detto che il maiale praticamente era libune di Ruperito, se gli dato gasse era musicato, la musicato era fatta, era legato nel muso e ce l'ha fatta a musicare lo stesso. La musica per sapere, non so quanti punti l'hanno messo. E a mio cugino 15 punti li avevano messo, me lo ricordo ancora. Ma così mi boom. Cazzo, ha pigliato la zanna e la... come se un cucito, Ma lo sai, i cani da caccia mi li tiravano, cazzo, così con le zanne, i cinghiali, e li aprivano, cazzo, di brutto. E a usare i cani da caccia con i minuti da fura. Ma non so, ma adesso un cacciatore, o li cucisci io ti vogliono di sanguatti, li devi cucire tu di lì, perché sennò non ce la fai a portare al veterinario, rimangono e muoiono di sanguatti. E allora, il cinghiale è Marue, e Robocco Matteo, Robocco mi si è di chi si mari, come ti chi si va via babbo, può ammattarlo subito perché è pericoloso anche per gli altri. È pericoloso. Poi quando ribondi nel ferrito devi miliare le zampe, come facevamo noi, gli legavamo le zampe a corda contraria, tu tiravi il coso e ci cucava la sola lo buco. Non è da ridarsi, no. Lo ferrito che ribondi ne vanno a scavare in terra, perché gli fa male quando... perché è come che abbiano una pala loro col naso. Ma lo sai quando gli fa il buco con un naso? Non hai idea. E se va di buco forse si rimuggi. Se va di buco forse, se tu li metti per dire una rete, una cosa, si fa il forse se lo passa sotto e se ne scappa. Se gli aveva fatto Angelo, quando ce li aveva lui i maiali, gli aveva fatto il pavimento in cemento, proprio liscio, in modo che loro col naso non potevano fare fossi, a chi si no si ne fuggini. Sono pericolosi, vabbè, tutto questo dove li fa quando li mettono il verrito. E il verrito mi rubano e mi fanno cava, a chi se non rubo un disacciato e cava anch'io. Però almeno vuoi dire. Col naso. E glielo mettono per quel motivo il ferro. Cavagala. Ma chi sono oltre la mano, cazzo, la stava due zampi, ma la giusti ti carricava proprio, era cattivo. E cazzo babbo non ha avuto il coraggio di ammazzarlo perché ce l'aveva da piccolino, no? E l'aveva venduto a questo sasso, a questo macellaio. L'aveva venduto. E cazzo viti li dava l'idea ne ha mangiata sopra addirittura. Non c'entravano dentro, no? A chi ludimia ne rimasti daggi. E allora Rubuniana ha mangiata da sopra. Quando la puttana era ammazzato io per ammazzarlo, l'ha dovuto imparare un vigile a chi era bicicletta rimasto in daggi. Anche io ho visto uno così, lo sai, ha ammazzato i sassari. Li metteva in fila per ammazzare le cose. Questo qui si era reso conto, è scappato e si è uscito dove ci sono i puntini, ha attraversato la strada, tutti quanti hanno fatto, ma non è parato, no? E tutti ha preso, cazzo, rincorrendo, cazzo, si è uscito, ma non hanno bisogno, secondo me. Un vigile urbano che vi era ammazzato, io l'ha tirato. Se stava perseguitando i macellai fuggendo lui dietro, che li voleva morsicare. Oh, yeah. Bubu, è un casino. E beh, se rendono conto che li vogliono ammazzare, io guido, qualsiasi persona più lo farebbe. Poi Rubuco e Marumi, si caggi sotto, un gatto piglia e ti sbrana, Quei maiali così sono pericolosi, perché ti sbranano. Ma quello cattivo, quello che avevo portato col furgone io. Non lo so se è quello, noi ne avevamo uno cattivo. Se sto dicendo si saliva a due zampe e si metteva, si alzava a due zampe e non pariva manco un poco. cazzo tre quintali ci vogliono a due zampi, mica vieni boom. Eppure questo si metteva a due zampe e ti vuoi aggarrigare. Se lo prendeva a calci al naso io, con gli scarponi, un cavolo mi faceva, girava e mi caricava attorno. Se non sa più da capace i cizi. L'unico che tenia era di Vainza, chi subigliava la rucciaggia e ricudiva un quel patrombo al naso. Vabbè, poi l'ha fatto fare in brutta. A Satta l'aveva venduto. Infatti chi ce l'ha detto è Satta proprio. Io su bocco un cazzo di un'altra indagine ha fischiato. Come ci ha fischiato? Cazzo, la una bestia ma a buttarlo, a ammazzarlo. E lei da fischiato nei macellai ha perseguitato, altro che noi. Il vigile come ha visto così si è tolto la pistola e l'ha sparato. Vabbè, cosa vai? Cosa ammazzava ieri? Non fa di ammazzare i mazzidaggi, no? Chissà se si bizzicava su buco, tanto ti sbranava, io lo so. Era cattivo, lei e luci geletti, va via, mi lamento ancora. Chissà buco, ti sto dicendo, cattivo come quello non ne ho mai visto. 200 anni. E mica è udu buchi, mi masci. Eppure non erano così, questo ti caricava proprio. Se quando era piccolo gli ha tirato un colpo di muso a babbo ti la fatici longurongo di tu buchili ti la fatici e babbo bisava 100 chili, non era uno scherzo, no? Gli ha tirato una spinta quando era piccolino e ce l'ha fatto uscire longurongo dei cidu. E così era il toro di Marco, Camillo, che lui l'aveva allevato da piccolino perché la madre era caduta in un fosso e praticamente l'hanno dovuto abbattere perché si erano rotta le zampe e l'hanno abbattuta lì nel fosso, l'aveva poi l'hanno presa col trattore e l'hanno portata via. E Camillo era piccolino, l'ha attaccato Marco col bimbero e l'ha fatto grande lui, infatti quando vedeva Marco era come un cagnolino, le stava sempre appresso. Beh, questo toro è diventato grande, è diventato un mare, ti attaccava. E stava arrivando ad attaccare anche a Marco, capito? E dice già io, l'ho dovuto dare per togliermelo dalle scatole perché era pericoloso. L'ho venduto, quando lo stavano portando via, dice mi chiamava, diceva a trovare a buio le lacrime. A me da si usava animali, l'animale è intelligente, pari così. Però intelligente, a vederla si lo chiamava. È logico che Marco non ha avuto il coraggio di ammazzarlo e ce l'ha venduto, come ha fatto Babbo. Quando ce l'era piccolo così, non c'è nulla da fare. Non vai il coraggio. E dopo lo puoi ammazzare da tu, devi portare a mattatoio per ammazzare il toro, vuole portare a mattatoio, vuole visitare il veterinario, tutto quanto. Infatti. Babbo l'ha dovuto vendere, chi so buco, perché era pericolosissimo. Se una volta, siccome stava sempre con Zivainzo, no? E Ghidu lo grattava con la brida, pigliava un cantone e lo grattava tutto quanto, e tu si vazia a grattare, si vazia. Una volta ha appoggiato la pipa, si aveva costruito la pipa a quest'uomo, ha preso e ce l'ha mangiata, mi dà frantumata. Ma era bussi a basso, di accusso c'è Azusa, di Vaindu, a colpi di rucciaggia, mi dà la parte che non taglia. E allora la stessa campagna di Antonio, ci siamo seduti sul muretto, stavamo bevendo, ci siamo mezzo gotti, e me ne farà da la volta nel pulcile, cazzo. E il maiale se l'ha presa, se l'ha tutta massicata, l'ha fatta diventare un coso, un cenchio, poi quella tutta canta rossicata. Ah no, era frantumata la pipa, se l'aveva costruita perché si costruiva le pipe e tutto di Vaindu di Vazia, se la baciava Ghidu. Ah tu, ma era usci a vattu, ah la pipa da mangiare, da gente da con sé, la costruita giusta. Sono animali, ma sono dovessi i maiali, se tratti da piccoli, sono dovessi, sono obbedienti, sono intelligenti, anche io ho visto certi filmati su internet, se li portano dentro a casa, se li coccolano come cani, capito? E già lo so, quelli bravi, ma chi c'era amaro di condizione? La minore era così. Saranno di quei maiali che non crescono.